In definitiva, la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione all'associazione per delinquere, nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all'ambiente siciliano, il quale nell'arco di un congruo lasso di tempo chieda ed ottenga, per conto dei suoi sodali, ad esponenti di spicco dell'associazione, interventi paralegali. Incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione. Intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone l'influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio, tagliate fuori da tali rapporti. Appalesi un autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso. Indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi, da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati. Ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di gravissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dei diretti contatti con i mafiosi. Dia in buona sostanza a detti esponenti mafiosi segni autentici di amichevole disponibilità, idonei a contribuire al rafforzamento dell'organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale. Non resta allora che confermare, anche sotto il profilo considerato, il già precisato orientamento ad emettere, pertanto, la statuizione di non luogo a procedere, per essere il reato concretamente ravvisabile a carico del senatore Andreotti, estinto per prescrizione. La Corte, Palermo, 2 maggio 2003. 1 gennaio. Prosegue l'eruzione dell'Etna. 7 gennaio. L'Italia si aggiudica il primo posto tra i paesi industrializzati per la criminalità organizzata. Ricerca Censis. 12 gennaio. Cossiga afferma che fu Antonio Segni ad organizzare nel 1948 le formazioni armate contro il PC. Anche dette Gladio. 28 gennaio. I magistrati della Procura Militare di Padova affermano che Gladio era una banda armata illegittima. Poi passiamo al 30 gennaio. 30 gennaio la Cassazione conferma tutti gli ergastoli inflitti nel maxi processo a Cosa Nostra e annulla le assoluzioni rinviando ad un nuovo processo. Andreotti presenta alle Camere il rendiconto del suo governo che ha, dice, esaurito il suo compito. In che anno siamo, Simone? Non lo so. Questo è un anno molto particolare, Simone, perché è un anno in cui sono accadute tantissime cose che la nostra memoria in un certo senso ricorda, però non rammenta più che tutte queste cose che sono accadute si sono verificate esattamente nello stesso anno, anzi molto di più, nell'arco di pochissimi mesi, di appena 6 mesi. E come questo 30 gennaio, per esempio, noi pensiamo che tutti gli avvenimenti del 1992, perché ci troviamo nel 1992, siano come slegati tra di loro. Appunto il 30 gennaio abbiamo un Presidente del Consiglio che presenta il proprio rendiconto alle Camere, quindi l'ordinaria amministrazione di un Parlamento e l'ordinaria amministrazione di un tribunale che rinvia e annulla alcune sentenze o le conferma. 17 febbraio. A Milano il giudice Di Pietro fa arrestare il socialista Mario Chiesa. Inizia la clamorosa inchiesta Mani Pulite. Poi andiamo a marzo e arriviamo al 12 marzo. L'europarlamentare democristiano Salvo Lima, capo della corrente andreottiana in Sicilia, viene assassinato dalla mafia. E poi siamo ad aprile, mi sembra il 28 aprile. 28 aprile Cossiga firma le dimissioni e lascia il Quirinale. E poi il 30 aprile il Moro di Venezia sconfigge New Zealand e giunge alla finale di Coppa America. 23 maggio. Poco prima delle ore 18, sull'autostrada dell'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, viene assassinato il giudice Giovanni Falcone. Rimangono uccisi anche la moglie e 3 uomini della scorta. E poi abbiamo il 25 maggio. Al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano, diventa il 9° presidente della Repubblica e si svolgono a Palermo i funerali di Stato del giudice Falcone. Allora, già nel 1988, per quello che comunica direttamente Ignazio Salvo, Andreotti è intervenuto per non far nominare Falcone a consigliere istruttore. Comunica Ignazio Salvo che Andreotti si è attivato per non far nominare Falcone consigliere istruttore e quindi per fare un favore a Cosa Nostra. Ecco, qui Simone abbiamo un'altra data, il 25 maggio, in cui ci sono due avvenimenti che sembrano... anzi sicuramente lo sono, insomma, non voglio insinuare nulla, sembrano avvenimenti scollegati tra di loro. Cioè, da una parte abbiamo un Parlamento che legittimamente elegge il proprio Presidente della Repubblica e dall'altra parte l'ordinaria amministrazione di un sacerdote che celebra dei funerali di Stato. Quando loro vogliono sono sempre in condizione di sistemarsi e aggiustarsi le cose. Che a me non mi interessa che lui blocchi la candidatura di Giovanni Falcone a capo ufficio istruzione, tanto io lo devo sempre uccidere. A me mi interessa che lui si interessi per far sistemare il maxi processo. Queste sono parole di Brusca. E poi va bene, a giugno non mi sembra che accada niente di particolare, se non che Amato diventa Presidente del Consiglio. Però insomma... Luglio, arriviamo al 14 luglio con l'avviso di garanzia. E qui... me lo ricordo perfettamente, Simone, perché ero in una pausa tra delle prove spettacolo, avevo fatto una piccola tournée in giro per l'Europa ed ero con il mio amico Lorenzo e ci eravamo presi una vacanza ed eravamo andati chissà perché ad Assisi. E stavamo nel campeggio di Assisi e arriviamo nella piazza centrale, quella che poi immette alla cattedrale. Sulla sinistra c'era, forse c'è ancora, adesso non me lo ricordo, c'era comunque un'edicola. E quel 14 luglio l'edicolante aveva appeso fuori tutte le prime pagine dei principali quotidiani, l'Unità, il Corriere della Sera, il Messaggero, il Tempo, il Manifesto, stavano tutte lì appese e su tutte le prime pagine c'era il faccione unto, non so se tu te lo ricordi perché mi sembri un po' piccolo, però insomma c'era questo faccione unto con i boccoletti di Gianni De Michelis. E proprio sui denti di Gianni De Michelis in alcune foto c'era scritto avviso di garanzia. Io e Lorenzo siamo rimasti impalati dinanzi a questa immagine. Insomma, eravamo, cioè, avevamo le lacrime, commozione civile, penso. E quindi, insomma, a un certo punto eravamo talmente presi dall'euforia che ci siamo lanciati dentro l'edicola. Soltanto che davanti a me c'era una ciotola enorme di fiori. Io non l'ho vista, ci sono cascato dentro. Due punti di sutura, 14 luglio del 1992, non me lo dimenticherò mai. 18 luglio, avviso di garanzia a Bruno Tabacci. Una persona che adesso, insomma, è abbastanza schierata a sinistra nel Parlamento italiano. 19 luglio, ecco, me lo ricordo anche il 19 luglio perché anche lì stavo facendo le prove, ritorno a casa la sera e c'è mio fratello in fondo al salone, sotto la finestra, stravaccato come al solito sulla poltrona, sta in calzoncini corti, boxer e canottiere, il telecomando in mano, e mi guarda e mi dice, hanno ammazzato a Borsellino. E io in quel momento ho pensato, è finita. Cioè il 23 maggio Falcone, adesso Borsellino è finita e improvvisamente mi ricordo anche di come ho appreso della morte di Falcone perché anche in quel caso io stavo facendo le prove, stavo però a Tortona, avevamo finito le prove e tornavamo a casa per i vicoletti di Tortona e tutte le televisioni di tutti gli appartamenti che si affacciavano nei vicoli e nelle stradine di Tortona erano sintonizzate sulle edizioni straordinarie del TG1, del TG2. Ed è così che noi abbiamo appreso che Giovanni Falcone era saltato in aria. Insomma, questo 19 luglio io ho pensato, è finita, però poi è successa una cosa straordinaria, Simone. Cioè, è successo che il 21 di luglio si celebrano a Palermo i funerali degli uomini di scorta di Borsellino e improvvisamente incominciano ad arrivare tutti i politici. E la gente è incazzata, veramente, cioè strillano, urlano, li cacciano via. E poi a un certo punto arriva il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, questo omino che insomma tutto sommato era un bravo uomo, ancora non sapevamo se sarebbe stato un bravo o un cattivo presidente, perché era stato eletto il giorno di un altro funerale di Stato e la sua prima uscita pubblica è un funerale di Stato. Era un omino che finiva i discorsi con Viva Maria, Viva l'Italia, no? Te lo ricordi? Cioè, no, però vabbè, insomma, arriva e gli fa da scorta il capo della polizia in persona, Giovanni Parisi. E improvvisamente un uomo qualsiasi, come mio padre o come tuo padre, insomma, una persona normale, si getta nella folla e dà uno schiaffo al Presidente della Repubblica. Non lo prende proprio bene, di striscio. Prende meglio il capo della polizia, Parisi. Ma io dinanzi a quell'immagine, che poi comunque è stata cancellata perché le televisioni non ce l'hanno fatta più vedere, né nei giornali. Soltanto chi quella mattina stava davanti alla televisione come me, se la puoi ricordare. Ma dinanzi a quell'immagine io ho pensato, se un uomo qualsiasi come mio padre o come tuo padre dà uno schiaffo al Presidente della Repubblica, forse qualche cosa può ancora cambiare. Cioè, io avevo 22 anni all'epoca e ci credevo, insomma, no? Simone, tu in che anno sei nato? Nell'86. 86? 86, beh, che cosa è accaduto nell'86? Vediamo un po'. Allora, nell'86 c'è stato il caso di Chernobyl, te lo ricordi? Sì, lo ricordo. Ad aprile? Sì. E poi c'è stata un'altra cosa importante. E poi il 22 marzo, se non sbaglio, bevendo un caffè, dopo 2 giorni di agonia, muore Michele Sindona. Tu sai chi era Michele Sindona? No. No? Assolutamente niente. Va bene, Simone, noi abbiamo una cortesia da chiederti, perché il tuo ruolo in questo momento è fondamentale, perché noi potremmo parlare all'infinito e quindi abbiamo bisogno di te per avere un'interruzione. Sì, perché a un certo punto questa nostra storia, insomma, partirà, incominceremo a citare personaggi, cose che magari tu non conosci, altri conoscono, insomma, vabbè, insomma. Però poi a un certo punto ci verrà come una crisi, come dire, di rigetto, un conato di vomito, no? E quindi uno ha la necessità per, cioè, come dire, di annebbiare la mente, di cancellare tutto, di rimuovere, no? Di allenarsi dinanzi, ne so, alla televisione. E quindi diciamo che tra una mezz'oretta, tra 30 minuti, tu ci devi dire basta. Non so, fai un colpo di tosse, uno scatarro, cioè quello che vuoi, insomma, oppure dici semplicemente basta, e così noi poi concludiamo, insomma, va bene? Allora, dalla fine degli anni 40 fino al 1984 sono stato membro di un'organizzazione chiamata Cosa Nostra come soldato. Cosa vuol dire soldato? Fra di noi viene chiamato uomo d'onore ed è il titolo che si dà a chi non è graduato. Sai chi parla, Simone? No. Questo qui è un pentito, il più pentito dei pentiti, in un certo senso. È Tommasino Buscetta. Allora, lei quale Cosa Nostra ha conosciuto? Chiede il pubblico ministero. Io ho conosciuto una e l'unica che c'è, ed è in Sicilia, a Napoli, in America, in Venezuela, e tutte chiamate come sempre Cosa Nostra. E sai perché Tommasino Buscetta è importante? No, non lo so, neanche questo. Non sa niente, Simone, è veramente lo spettatore ideale, proprio no? Il tipo. È importante non tanto perché Tommasino Buscetta ci abbia detto chi ha fatto cosa, chi ha ucciso chi, eccetera. È importante perché Tommasino Buscetta ci ha spiegato come è costituita Cosa Nostra, come è costituita la mafia, ci ha spiegato come agiscono i mafiosi, cosa pensano. Di regole precise scritte non ne conosco, non ne ho mai viste e non ce ne sono, ma il comportamento doveva essere proprio quello adeguato ad un uomo d'onore. Cioè, il comportamento doveva essere adeguato ad un uomo d'onore. Tu sai che cosa può significare una cosa simile? No. Anche questo non lo immagina. Allora, un uomo d'onore, ce lo dice Buscetta, ce lo spiega perfettamente. Un uomo d'onore non poteva mai, in nessun caso, in nessun modo mentire. Allora il pubblico ministero chiede: questa è una regola che gli uomini d'onore dovevano osservare anche nei confronti delle autorità, dello Stato, oppure no? No, risponde Buscetta, per l'amor di Dio, anzi, si aveva molto più valore non dicendo la verità alle autorità dello Stato, perché lo Stato, se mi è consentito dirlo, eravamo noi e non lo Stato. Cioè, Tommasino Buscetta qui esprime un concetto, no, fondamentale, cioè dice eravamo noi lo Stato e non lo Stato. E Simone, io ti dico che c'ha perfettamente ragione, perché negli anni 70... A parte che Tommasino Buscetta ha passato gli anni 70 nel carcere di Cuneo come un pascià, però vabbè, questa è un'altra storia. Cioè, comunque, negli anni 70, Tommasino Buscetta, cioè, se tu avevi un problema, che ne so, ti rapivano il presidente della Democrazia Cristiana, non è che andavi dalla polizia, dai servizi segreti, no, tu andavi a Cuneo, dove c'era appunto il signor Tommasino Buscetta, e gli dicevi, senti, per piacere, che per caso me lo trovi? Lui, guarda, che si organizzava. Ho avuto l'incarico da un uomo malavitoso di Milano chiamato Ugo Bossi di interessarmi, o se volevo interessarmi, alla liberazione dell'onorevole Moro. Dissi in quell'occasione che non era possibile perché a Cuneo non c'erano brigadisti adatti per poter parlare di una cosa simile. E ho avuto anche altri incarichi da parte della mafia, anche se in senso bonario. Anche se in senso bonario, ci dice, no? Perché poi un bel giorno lui si ritrova così nell'aula dei colloqui con la moglie, che l'ha mandato un certo Stefano Bontade, che tu non sai chi sia, però vabbè, che a sua volta ha ricevuto una telefonata da Nino e Ignazio Salvo, che a loro volta hanno ricevuto un input da un certo onorevole Giulio Andreotti, insomma, che bisogna assolutamente trovare la prigione di Moro. E la moglie di Tommasino Buscetta specifica: per scopi umanitari. E allora Tommasino Buscetta si mette lì alla ricerca, soltanto che lui sta a Cuneo, e a Cuneo ci sono dei brigadisti, sì, con cui poter trattare, ma come dire, è la manovalanza. Sarebbe stato necessario, chiede Buscetta, sarebbe stato necessario, siccome in quel momento si svolgeva un processo contro i brigadisti a Torino, di cui facevano parte tutti i maggiori brigadisti, e allora chiesi se potevo essere trasferito a Torino. Cioè, succede questo praticamente, che Tommasino Buscetta è a Cuneo, soltanto che i capi brigadisti stanno, cioè Curcio sta a Torino, e quindi bisogna trattare con... Per la liberazione di Moro bisogna trattare con una persona importante, con uno che abbia un ruolo. E allora lui fa una cosa semplicissima, Tommasino Buscetta, per poter andare a Torino. Come un dipendente comunale, stanco di lavorare all'anagrafico, vuole andare a lavorare all'ufficio tecnico, fa una bella domanda di trasferimento. No? Semplice. Soltanto che questa domanda di trasferimento finisce sulla scrivania di un nuovo personaggio, Carlo Alberto Dalla Chiesa, che all'epoca era il responsabile della sicurezza delle carceri, insomma un esperto, e si trova davanti questa domanda di trasferimento e gli puzza, dice: no, io non ce lo mando a Torino. Simone, tu sei mai stato a trovare qualcuno in un carcere? Non mi è mai successo, no. Non hai mai avuto questa fortuna? No, perché guarda che se qualcuno fosse carcerato a Cuneo, soprattutto un tuo parente a Cuneo negli anni 70, se la sarebbe passata veramente in una maniera splendida. Anche perché tu devi sapere che a Cuneo c'era una piccola stanzetta, no? Dove tu venivi immesso prima di poter parlare appunto con tuo fratello, con tua moglie, la tua fidanzata carcerata, insomma non lo so, e tu rimanevi solo in questa stanzetta in attesa che venisse il poliziotto e ti facesse una perquisizione, insomma. E noi questa stanzetta ce la dobbiamo proprio immaginare fisicamente. Cioè, magari è piccolina, che ne so, 1,5 metri x1,5 metri. E tu stai lì da solo che ti sei portato, che ne so, delle arance? No? E in mezzo alle arance che ci hai messo? Non so, non ho idea. Sempre non so, non hai idea. Cioè, una lima. Una lima, no? Per pensare alle sbarre, no? Tutti ci mettono una lima in mezzo alle arance. No, ci hai messo tu i diari di Moro, pensa. Wow. E in questa stanzetta di 1,5 metri x1,5 metri, cioè, c'è una finestrella. Magari, che ne so, a sinistra, no, tu stai lì fermo davanti alla porta e a sinistra c'è questa finestrella, c'hai i diari di Moro in mano e dici: vabbè, forse non è il caso che li porto dentro. Allora apri la finestrella e li butti giù, beh, per liberartene. E sai dove cascano? In un cortile? Esattamente nel cortile del carcere di Cuneo. E proprio sotto alla finestrella c'è un tombino. E tu poni il caso che accanto al tombino in quel momento, che ne so, c'è il cuoco del carcere, oppure un poliziotto del carcere, che alza la grata del tombino, dà un calcio ai diari di Moro e quelli finiscono dentro. Casualità. È tutta una casualità, logicamente, questa nostra storia. L'involucro per la presenza di ruggine sul tombino, per le modalità di ritrovamento, appariva essere rimasto in quel luogo per parecchio tempo. E chissà quante cazzo di volte il generale Carlo Alberto Della Chiesa ci sarà passato sopra a quel tombino mentre stava cercando proprio i diari di Moro. E soltanto un anno dopo che un certo Mino Pecorelli, un giornalista, gli dice: oh, gli vai a trovare i diari di Moro? Ti ci porto io. Dove? Nel carcere di Cuneo. Secondo quello che mi diceva lui aveva delle telefonate dove parlava con personaggi politici. Secondo quello che mi diceva lui, ad un certo momento questi personaggi politici ebbero a dire, e io questo l'ho letto nelle trascrizioni in possesso di Ugo Bossi, che la Democrazia Cristiana non lo volevano vivo, anche con parolacce. Cioè, succede questo, che Perché guarda, stare nel carcere di Cuneo doveva essere veramente una cosa meravigliosa. Venivi informato immediatamente di tutto quello che accadeva in Italia. Cioè, la polizia e i carabinieri facevano le intercettazioni ai vari politici della Democrazia Cristiana, no? Che parlando al telefono dicevano tra di loro che appunto Aldo Moro doveva morire anche con parolacce, lo dicevano. E Tommasino Buscetta, insieme a Ugo Bossi, stanno lì nel carcere e loro leggono in tempo quasi reale queste intercettazioni telefoniche, no? Cioè, è meraviglioso quasi, no? Cioè, si leggono i diari di Moro, si leggono intercettazioni telefoniche, chi è più informato di loro? Eccezionale. Mia dolcissima Noretta, credo di essere giunto all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere questa mia esperienza umana. Gli ultimi tentativi per i quali mi ero ripromesso di scriverti sono falliti. Chi è che parla, Simone? Non ho idea, davvero. Questa è una lettera, una delle ultime lettere di Moro alla famiglia. Pacatamente dirai a Cossiga che sono stato ucciso 3 volte per insufficiente protezione, per rifiuto della trattativa e per la politica inconcludente, cosa che in questi giorni ha eccitato l'animo di coloro che mi detengono. Sì, perché Moro qui oramai ha capito che probabilmente lo ammazzeranno, perché sì, Giulio Andreotti e tutti quanti gli altri hanno provato a liberarlo, ma non hanno provato a liberarlo con le armi di uno Stato di diritto, con le armi di uno Stato democratico, ma hanno provato a liberarlo alla loro solita maniera, utilizzando un po' di massoneria, un po' di banda della Magliana, un po' di mafia, cioè con le loro solite armi. E quindi Aldo Moro si è reso conto di aver scritto la propria condanna a morte proprio in quei diari che sono lì, nel tombino del carcere di Cuneo. Simone, ti faccio la stessa domanda che il pubblico ministero ha fatto a Buscetta. Signor Buscetta, lei sa chi sia stato o ha mai conosciuto un certo Frank Coppola? Io non lo conosco. Sei fortunato, insomma, in un certo senso. Frank Coppola, anche detto Frank Tre Dita Coppola, perché effettivamente era rimasto con 3 dita. Noi sempre per concretezza dobbiamo immaginarci quali fossero queste 3 dita. Pollice, medio, indice. Ok, pollice, medio e indice. Cioè lo dobbiamo anche immaginare fisicamente, no? Un omino, cioè una sorta di scaldabagno coi piedi, facciamo, no? Cioè tarchiatello con la scopoletta, anche vestito abbastanza elegante, no? La classica, cioè, insomma, è un siciliano che fa l'emigrante, no? Cioè va a New York, soltanto che poi a New York pare abbia esagerato. Come mafioso, insomma, come delinquentello, e ce lo rispediscono in Italia, dicendo no, qui forse lo arrestano, è meglio che ve lo riprendete. Lui c'ha una villa a Pomezia, pensa, insomma, è un bel personaggio. Allora, Simone, per farti capire chi è questo Coppola, ti volevo chiedere se sai chi è Varone, invece, perché tramite Varone si può arrivare a capire chi è Coppola. No, non ne ho idea. No, perché tu devi sapere che negli anni 70, cioè se tu... Vedi, perché tu purtroppo sei dell'86, sei nato 16 anni dopo, certe cose non le puoi capire, ma se tu avessi avuto sempre quel famoso parente carcerato, alla notizia del rapimento di Moro, tu immediatamente ti saresti messo a cercare la prigione di Moro, perché è questo che pensano tutti i delinquenti romani, cioè se io trovo Moro, dove le Brigate Rosse lo tengono nascosto, probabilmente ne avrò un beneficio. O un mio parente che sta in carcere, un amico che sta in carcere, che ne so, verrà anche liberato, no? E quindi c'è questo, per esempio, questo Varone che ha un fratello carcerato e fa esattamente questo ragionamento. Se io trovo Moro, mi liberano il fratello, no? Un equo scambio. Esattamente. E un equo scambio non con le Brigate Rosse, però, con lo Stato, no? Però, insomma, lui si mette alla ricerca, è un personaggio un po' strano questo Varone, un po' legato alla banda della Magliana, un po' alla delinquenza nera, insomma, vabbè, e lo trova. Cioè, a un certo punto enuclea il quartiere dove probabilmente viene tenuto prigioniero Aldo Moro, e quindi lui va da un senatore della Democrazia Cristiana, un certo Benito Cazzora, e gli dice, guarda che probabilmente... In poche settimane riesco anche a trovare proprio il palazzo, il numero civico. E allora Benito Cazzara corre, va dal prefetto, dal questore, va da un giovane rampante della Democrazia Cristiana, perché poi devi sapere che in Italia non si diventa mai ministro degli interni a caso, no? Quindi va da Beppe Pisano, pensa. e gli comunica che Aldo Moro può essere trovato. E Beppe Pisano dice: vabbè, continua la ricerca, non si sa mai. Vincenzo Vinciguerra riferisce di un intervento di Frank Tredita Coppola per far desistere Varone dalla ricerca della prigione di Moro. Frank Tredita Coppola, infatti, secondo il racconto del Vinciguerra, aveva chiamato Varone nella sua casa di Pomezia per farlo incontrare con una persona il cui nome non ricordava, anche se gli era stato detto dal Varone, il quale aveva detto al Varone di non interessarsi alla liberazione di Moro e che se era una questione di soldi glieli avrebbe dati lui. L'invito a non occuparsi della liberazione di Moro era giustificato dal fatto che egli comunque doveva morire. E questa persona, che non si ricordano chi sia, che sta a questo incontro, è Francis Turatello, un fico della Madonna negli anni 70, perché era veramente un personaggio straordinario, appartenente un po' alla mafia, ma era anche negli anni 70 ci sono tutti questi personaggi che vale la pena forse indagare bene chi fossero, che cosa facessero. Comunque, gli dicono a Varone: basta che lo cerchi, basta questa ricerca, no? Perché Aldo Moro deve morire, se hai bisogno di soldi, i soldi te li diamo noi. In realtà Francis Turatello e Frank Tredita Coppola non sanno che Varone l'ha trovata a Moro e che probabilmente, anzi diciamo il giorno dopo, ritorna da Benito Cazzora e gli dice: io ho il palazzo e il numero civico, ti interessa? E Benito Cazzora allora ritorna dal prefetto, dal questore, gli dice: guardate che l'abbiamo trovato, cioè so dov'è Moro, cioè, lo posso sapere, basta che lo chiedo e me lo dicono. E il prefetto gli dice: tranquillo, non c'è bisogno di mettere a rischio la vita del presidente, della polizia, dei carabinieri con un intervento armato. No, tranquillo, abbiamo trattato. Il 9 maggio lo liberano. E l'hanno liberato, no? Allora, parliamo d'altro. Tu vai dal barbiere, Simone? Ogni tanto. Beh sì, mi sembra che ci sei appena andato comunque dal barbiere, da quel che ricordo. E tu devi sapere che al centro di Roma c'era un barbiere, ci sono vari barbieri, no? C'era un certo Torquato, da barba e capelli, no? E nel 1970, una volta al mese, tra le 3 e le 5, Frank Tredita Coppola andava dal barbiere. E tu, Simone, ti chiederai chi è che per caso, nello stesso giorno, nello stesso orario, andava dallo stesso barbiere per caso. Cioè, assolutamente casuale. Cioè, arrivava prima Frank Tredita Coppola, probabilmente, con la sua scorta. Non so, le macchine del tempo erano le 1500, le Fulvia. Arrivava lì, si sedeva su questi seggioloni, che insomma, gli mettevano il lenzuolone, quello un po' grigetto, azzurrino, e poi... No? Gli facevano la barba e poi dopo 5 minuti, 10 minuti arrivava Giulio Andreotti, pensa, con la scorta, quella del ministero, i macchinoni belli, quelli neri lucidi, no? E si sedeva magari, che ne so, 2-3 seggioloni un po' più in là, no? E anche lui il lenzuolone, anche lui la schiuma da barba in faccia, no? Uno magari leggeva la Gazzetta dello Sport e l'altro il Sole 24 Ore o il Corriere della Sera, insomma, no? Ora tu ti chiederai di che cosa avranno parlato. Cioè, non da subito, no? Perché magari a gennaio loro non si conoscevano, no? Poi, che ne so, a febbraio Giulio Andreotti, entrando, avrà pensato: ma io questo qui già l'ho visto. A marzo l'ha pure salutato, gli ha detto buonasera, no? E quell'altro ha risposto. Poi verso luglio avranno incominciato anche a chiacchierare, che ne so, parlavano di sport, no? Anticipazioni su Però sarebbe bello sapere proprio di che cosa avranno mai parlato, No, perché poi sembra che questi incontri si siano interrotti verso novembre, verso dicembre, perché nel 1970 tu sai che cosa sarebbe dovuto accadere? No, cosa sarebbe accaduto? C'è una notte, la notte dell'Immacolata, tra il 7 e l'8 dicembre del 1970, che un pazzoide, insomma, un certo Giunio Valerio Borghese, aveva pensato di fare un colpo di Stato, pensa. Soltanto che in questo colpo di Stato aveva deciso di farlo con le guardie forestali, cioè con i decespugliatori, i falcetti, queste cose qua, no? Quindi lui stesso non si sentiva granché credibile a fare un colpo di Stato. Nei suoi articoli Carmine Pecorelli aveva sempre sostenuto che il coinvolgimento del generale Vito Micelli nel golpe borghese era stato frutto di un piano di Giulio Andreotti per continuare ad esercitare il potere. Cioè, è un colpo di Stato strano, perché poi a un certo punto, appunto, Borghese si rende conto che con le guardie forestali non si può fare un colpo di Stato, cioè, no? Allora fa una telefonata e indovina chi telefona? Alla mafia. E gli chiede se per piacere anche loro, magari, che ne so, vogliano partecipare al colpo di Stato, perché bisogna rapire il Presidente della Repubblica, occupare la RAI, insomma, fare queste cose da colpo di Stato, cioè non le puoi fare con le guardie forestali, no? E la mafia incomincia a pensarci, incomincia a valutare se sono vari: Tommasino Buscetta, Stefano Bontate, Pippo Calò, insomma, tutti questi Gaetano Badalamenti incominciano a pensare: partecipiamo, non partecipiamo, ma che dice, cioè, eccetera. Però poi a un certo punto, come dire, bisogna fare questo colpo di Stato e Borghese chiede a questi boss della mafia: ma voi come intendete vestirvi? E la mafia, cioè, gli avranno detto: beh, noi andiamo in Borghese, no? Cioè, tutta più, che ne so, ci portiamo la lupara, ci riconoscete per la lupara, però insomma noi solitamente andiamo così, normale, casual, no? Per i tempi, logicamente. E Borghese dice: no, però forse sarebbe meglio che tutti quelli che partecipano al colpo di Stato si mettano una bella fascetta nera al braccio. E allora, insomma, Gaetano Badalamenti, Stefano Bontate, questa gente qui non sono stupidi, no? Dicono: se noi facciamo il colpo di Stato con la fascetta nera al braccio, ma ti pare? Poi voi ci riconoscete e ci fate tutti fuori. No, noi se partecipiamo, partecipiamo in Borghese, senza così casual. E insomma, su questa cosa litigano e non si mettono più d'accordo, e quindi poi, che ne so, a Borghese gli è toccato fare questa discesa su Roma con le guardie forestali, sulla Salaria, no? E poi si sono fermati lì, a un certo punto è arrivata una telefonata, tornati indietro. Però Simone, la domanda di prima io voglio ancora rifartela: secondo te che si saranno potuti dire Coppola e Andreotti? Non riesco a immaginarlo neanche. No, perché poi dopo, alla fine, in questa storia, come dire, cioè, i familiari di Torquato, no? del barbiere, cioè i genitori di Torquato, la moglie, i figli di Torquato, se lo chiedono: che cazzo mai si saranno detti questi due mentre si facevano la barba e i capelli? Perché Torquato, nel 71, è morto, e non di morte naturale. Cioè, quindi uno poi... Un'altra casualità. Sono tutte casualità, sì. No, cioè, e poi sono tutti elementi scollegati che bisogna esattamente tenere scollegati tra di loro. Simone, invece, Carmine Pecorelli. Hai mai sentito parlare di Carmine Pecorelli? Mai sentito. Cioè, tu sei veramente l'ignoranza pura. O giovane. O giovane, cioè, troppo giovane, però insomma, informati. Allora, una sera Carmine Pecorelli è morto. È morto il 20 marzo del 1979. Tra le 20:30 e le 20:35. Allora, Carmine Pecorelli era un giornalista, ma prima di raccontarti questa storia io ti voglio fare una domanda personale, mi scuserai. Sei fidanzato? Sì. Ok, allora... Allora, tu immagina che torni a casa dalla tua fidanzata e mentre torni a casa la trovi sdraiata sul marciapiede, trivellata da 6 colpi di pistola in un mare di sangue. Non è morta però, cioè tu le parli, gli dici: oh amore, e lei ti risponde. Tu che fai? Chiamo un'ambulanza, chiamo la polizia. Ecco, no, perché noi sono circa 2 anni che facciamo questo spettacolo in giro e tutti quanti grosso modo ci rispondono: chiamo l'ambulanza, la polizia, qualcuno i carabinieri, tranne una volta che uno ci ha detto l'accompagna alla morte. Però questa è un'altra storia, insomma, era una persona un po' fragile, insomma, romantica. Quindi... Tu chiami la polizia. Ecco, Franca Mangiavacca, secondo te, cioè, che cosa ha fatto? Allora, prima di tutto ti dirò: la morte di Carmine Pecorelli non è stata istantanea, ma dal momento degli spari a quello del decesso erano trascorsi circa 10 minuti. Ora ti raccontiamo un po' la dinamica dei fatti. Cioè, allora, Carmine Pecorelli esce dalla redazione di OP, la rivista, il suo giornale che dirigeva, insieme a Paolo Patrizzi e a Franca Mangiavacca. Paolo Patrizzi è un collaboratore, mentre Franca Mangiavacca è la sua fidanzata. Loro chiudono la redazione del giornale e poi, siccome è sera, è notte, insomma, siamo a marzo e sarà stato buio, insomma, alle 20:30, i due uomini decidono di accompagnare all'automobile Franca Mangiavacca. Quindi l'accompagnano un po' più in là da via Tacito, dopo l'incrocio, dove la macchina è parcheggiata. Poi una volta che l'hanno accompagnata all'automobile, Carmine Pecorelli va alla sua di automobile, che invece sta proprio vicino alla redazione, e Paolo Patrizzi dice Paolo Patrizzi, e noi ci crediamo, va a prendere l'autobus. Allora Franca Mangialacca rimarrà da sola, insomma, davanti alla sua automobile, aprirà la portiera, entrerà dentro, poggerà la borsetta sul sedile di destra, poi mi mette in moto, toglie il freno a mano, con una manovra semplice, perché siamo nel 79 e quindi ci sono poche macchine, esce dal parcheggio, supera l'incrocio con via Tacito e proprio sull'incrocio, un po' più in là, vede un uomo con un impermeabile bianco, lo supera e poi improvvisamente inchioda, torna indietro e va verso l'automobile di Carmine Pecorelli. E lo trova lì, trivellato da 6 colpi di pistola, in un mare di sangue, è ancora vivo e parla. Franca Mangiavacca, secondo te, che ha fatto? Non so. Franca Mangiavacca era ripartita cercando la persona con l'impermeabile bianco, ma non l'aveva rivista. Cioè, dobbiamo cercare di capire bene, perché, Simone, tutte le volte che tu sull'incrocio di una strada incontri un uomo con un impermeabile bianco, tu torni indietro e controlli che tua madre, la tua fidanzata, tuo fratello siano ancora vivi, vero? Lo faccio ogni volta. Cioè, fai benissimo, perché è così che funziona, anche perché poi il giudice, il magistrato, chiederà a Franca Mangiavacca, ma lei sapeva chi era quell'uomo con l'impermeabile bianco? Cioè, l'ha riconosciuto? E Franca Mangiavacca, secondo te, che ha risposto? Avrà risposto di sì. No, ha detto no. Cioè, Franca Mangiavacca ha lì il suo fidanzato che sta morendo, trivellato da 6 colpi di pistola, e si mette a inseguire un fantasma, un uomo con l'impermeabile bianco, e cerca, incontra invece Paolo Patrizzi, quello che doveva andare a prendere l'autobus, ma che non l'ha preso perché, insomma, non c'aveva i soldi per comprare il biglietto, è andato al bar, insomma, lo incontra, e tutti e due insieme poi si mettono a cercare l'uomo con l'impermeabile bianco, e sarà un carabiniere che passa di lì sempre per caso, perché queste cose accadono sempre per caso. Ciro Formoso passa lì per caso, vede questo cadavere, cioè questo quasi cadavere, questo diversamente vivo, e insomma, e chiamerà lui la polizia, i carabinieri, perché nel frattempo poi comunque scompaiono tutti i documenti di Carmine Pecorelli, non si sa chi ha aperto la cassaforte. Allora, Pecorelli è stato soppresso per ordine dei capi mafia Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti, su sollecitazione dei Salvo, per favorire Andreotti, ma questo non lo diciamo noi, è scritto qui nel processo, io anzi penso che non sia vero. Sì, no, assolutamente noi non avvaliamo queste tesi. Insomma, ma noi ci dobbiamo domandare, tutto sommato, perché poi se lo domanda anche il giudice, ma chi era Carmine Pecorelli? Perché poi la cosa bella di questa sentenza sull'assoluzione di Giulio Andreotti per quanto riguarda l'uccisione di Carmine Pecorelli, la cosa interessante è che il magistrato, nel motivare l'assoluzione, si fa una domanda, si pone una domanda fondamentale. Ed è non perché abbiano ucciso Carmine Pecorelli il 20 marzo del 1979, ma perché Carmine Pecorelli sia rimasto vivo fino al 20 marzo del 1979. Cioè, lui capovolge completamente il punto di vista, ed è per questo che incomincia a raccontare tutta la storia d'Italia e a farci capire che Carmine Pecorelli prima... Allora, prima. Simone, scusa, io ogni tanto lo interrompo perché altrimenti qui... Allora, Simone, soffri di emicrania? Sì. Abbiamo trovato uno che soffre di emicrania. Allora guarda, Simone, se tu soffri di emicrania devi assolutamente passare sotto le finestre di Giulio Andreotti e comunicarglielo, perché Giulio Andreotti è una persona straordinaria e sicuramente si preoccuperebbe di te, perché... Allora, Carmine Pecorelli aveva ringraziato Giulio Andreotti per l'invio di un medicinale idoneo a curare l'emicrania da cui entrambi erano afflitti. E questo è strano, no? Sì, è stranissimo, perché, insomma, cioè, chiederanno a Giulio Andreotti durante il processo se effettivamente Giulio Andreotti conoscesse Carmine Pecorelli, no? Ed è dalle risposte che uno capisce chi è mafioso e chi non lo è. Cioè, perché sono risposte geniali. E Giulio Andreotti logicamente dirà: no, non lo conosco. Allora l'avvocato, il magistrato, tira fuori questo fogliettino in cui Carmine Pecorelli ringrazia Giulio Andreotti per avergli inviato questo medicinale contro l'emicrania. E Giulio Andreotti risponde: ma sa, signor giudice, esiste una strana solidarietà nel mondo tra persone che soffrono di emicrania. E siccome io in un mio viaggio a Londra avevo trovato questo medicinale contro l'emicrania, gliel'ho inviato a Carmine Pecorelli. Tipo gruppo di supporto? Esattamente, un gruppo di supporto. Cioè la stessa risposta, pensa, la dà Totorrina. Cioè, quando gli chiederanno a Totorrina, ma lei è il capo dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, cioè, eccetera, lui risponderà: signor giudice, è stata una disgrazia. Mio padre nel 1936 è partito per la guerra d'Africa e quando è tornato era malato, ferito, e io da allora mi sono dovuto occupare di tutta la famiglia. Una necessità. È stata una necessità, appunto. Cioè, insomma, quindi sono queste le risposte che ti fanno capire la differenza tra i personaggi. Berlusconi, per esempio, cioè, ai vari processi non parla. Perché... Vabbè, allora, lasciamo stare Berlusconi. Allora, e i cugini Salvo? Sai chi sono i cugini Salvo? No, non ho idea. Allora, i cugini Salvo sono una sorta di Dico della mafia. Cioè, sono Nino e Ignazio Salvo. Sono una coppia inscindibile. Tant'è vero che quando poi chiedono ai vari pentiti ma questa cosa l'ha detta Nino o l'ha detta Salvo? I mafiosi, grosso modo, dicono, ma non me lo ricordo. Nino e Ignazio, a no? Un certo punto uno dei due ha una figlia che si sposa. Ecco, perché tu devi sapere poi, tra l'altro, che se tu un giorno ti dovessi sposare, anche questo lo devi comunicare o far sapere all'onorevole Giulio Andreotti, al senatore Giulio Andreotti, perché Giulio Andreotti c'ha, nel suo corridoio di casa c'ha una lunghissima credenza, e in questa credenza ci sono, secondo me, insomma, nella mia fantasia perversa, ci sono tantissimi vassoi, tutti d'argento, un po' più grandi, un po' più piccoli, e lui appena viene a sapere che qualcuno si sposa in giro per l'Italia, prende, chiama il suo collaboratore, Franco Evangelisti, all'epoca era, o qualcun altro, e dice: oh, guarda, si sposa Simone, mandagli un vassoio. Gli chiederanno: ma chi è Simone? Ah, non lo so neanche io, ma si sposa. Giulio Andreotti è uno preciso, non si dimentica niente. Lui è del Capricorno, è nato il 14 gennaio 1919. Eh sì, cioè, perché quindi ci avrà, che ne so, la scrivania tutta bella, ordinata, no? Le matite con le matite, i temperini con i temperini. No, perché noi ci dobbiamo, cioè, una bella scrivania di quelle un po' antiche, no? In una stanza, io me la immagino abbastanza bianca, una pianta sola, abbastanza scevra di orpelli. E in questa scrivania che non ha neanche, come dire, comodini, cassetti, c'ha due cassettini piccoli, pensa. E in questi due cassettini, nel cassetto quello di sotto, il secondo, ci sono 1.400.000.000 di lire in assegni intestati a nome di Fantasia o intestati in bianco. E se metti che tu devi tua madre deve pagare il mutuo della casa nuova, no? Bisogno. Hai bisogno, no? Cioè, però c'hai il fiato delle banche sul collo, perché tu, insomma, non ce la fai. Vai da Giulio Andreotti, lui apre il cassettino e ti dà, all'epoca, erano gli anni 70, ti dava 20 milioni così. Cioè, tu devi pagare, che ne so, la tipografia, e non c'hai soldi per pagare la tipografia perché c'hai un giornale che si chiama, che ne so, Lotta Continua o P. Insomma, lui apre il cassetto e ti dà 20 milioni perché Giulio Andreotti 20 milioni non l'ha fatti mai mancare a nessuno. Cenni sui rapporti fra il senatore Giulio Andreotti e Vito Ciancimino. Cioè, Vito Ciancimino, tu lo sai chi era? No. È stato sindaco di Palermo, però era un uomo d'onore, e a un certo punto anche la mafia ha capito di aver esagerato. Che proprio... Cenni sui rapporti fra il senatore Andreotti e Salvatore Lima. Salvatore Lima, tu lo sai chi era? Neanche, va bene. Cenni sui rapporti fra il senatore Andreotti e Michele Sindona. Michele Sindona, ritorniamo alla tua data di nascita, il 1986. Come mai? Perché Michele Sindona è un personaggio niente male. Mi devi dire qualcosa, Simo? Beh, 30 minuti sono passati. Sono passati 30 minuti. Va bene, allora, visto che non abbiamo tempo, ti avremmo voluto raccontare di altri regali e di altre cose meravigliose che Andreotti ci regala. Allora, ti racconteremo invece soltanto l'ultimo episodio. Te lo leggo qui dal titolo degli articoli del processo contro Giulio Andreotti. Gli impegni di Giulio Andreotti a Palermo il 20 settembre 1987. A pagina 237 della sentenza. Allora, peraltro è pubblica, adesso chiunque vuole può leggere questa sentenza. Okay. Allora, il 20 settembre del 1987, un anno dopo la tua nascita, a Palermo c'è il meeting di Comunione e Liberazione, no? Adesso si fa a Rimini, però insomma E allora, come adesso, quando c'è il meeting di Comunione e Liberazione, tutti i politici nazionali stanno lì, al meeting, no? Perché gli piace, insomma, farsi vedere, parlare, no? E quel giorno, il 20 settembre 1987, stanno tutti nello stesso albergo, pensa. L'albergo di Nino e Ignazio Salvo. E c'è Spadolini in piscina, no? Con la ciambella, no? Che rilascia interviste, poi... E c'è pure Giulio Andreotti, pensa. Con la scorta, soltanto che tra le 3 e le 5, Giulio Andreotti, nella sua magnanimità, dice alla scorta: andatevi a fare un bel bagno in piscina. E quindi si mettono i braccioli, no? Corrono in piscina tutti contenti, visto quanto è buono Giulio. E soltanto che Giulio Andreotti invece viene visto uscire da quell'albergo, da un'uscita secondaria, con un'altra scorta, non quella del ministero. Perché a 5 minuti dall'albergo di Nino Ignazio Salvo c'è una palazzina un po' messa male, no? Ce la dobbiamo immaginare un po' tipo bombardata, tipo Beirut, no? Una palazzina che può ricordare vagamente, no? Il casale anche dove hanno trovato Bernardo Provenzano a mangiare cicoria e ricotta, insomma, questi posti così, a 3 piani. Al terzo piano c'è Totorina, pensa, in questa palazzina, che fuma nervosamente, fa su e giù e si chiede: ma che cazzo vorrà mai da me Giulio Andreotti, che ha chiesto un appuntamento, no? E pensa che questo appuntamento è così importante che tutte e due chiedono la presenza di un garante. Una persona che con la sua vita potesse garantire la vita sia di Giulio che di Totò. Cioè, perché perché dalla scelta del garante noi possiamo capire tante cose, no? Perché, allora, io faccio Giulio Andreotti e tu fai Totò Riina. Cioè, se Grazie. Tu fai qualche cosa a me, pagherà con la vita Ignazio Salvo. Se io faccio qualche cosa a te, pagherà con la vita sempre Ignazio Salvo. Quindi la domanda che noi ci dobbiamo porre: ma chi era Ignazio Salvo? Qualcuno di molto importante. Ma rispetto a loro due, logicamente. Certo. Quindi pensa tu poi anche in che stato d'animo fosse Ignazio Salvo nel suo albergo mentre questi due si stavano incontrando. Di tensione. Allucinante. Però comunque, vabbè, Totò Riina sta lì che passeggia, che si chiede: ma non è che mi vuole fare un'imboscata? E lo tranquillizzano e gli dicono: ma no, ma quale imboscata? Ma ti pare che mo Giulio Andreotti viene con le manette e ti arresta? No. È che nel 1987, insomma, tutti gli occhi sono puntati su Palermo, perché si è appena aperto il maxi processo. 500 mafiosi, 475 per l'esattezza, 474 boss della mafia che devono essere processati, proprio grazie all'azione di Giovanni Falcone e di Borsellino. E quindi tutto il mondo ha gli occhi puntati sul bunker di Palermo, dove si stanno svolgendo le prime udienze, no? di questo processo. E Andreotti sa che Totò Riina non è un personaggio tranquillo come all'epoca Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade, insomma, che erano mafiosi in doppio petto, anche dei bei massoni volendo, no? Invece Totò Riina è un po' rude, no? Lo chiamano Ucurtu, Bernardo Provenzano Utratturi, insomma, sono dei personaggi un po' diversi. Pippo Calò era il Papa, no? Cioè, insomma, vabbè, e quindi gli deve dire a Totò Riina: oh, calmo, tranquillo, cioè, adesso noi apriamo questo processo, tutto il mondo cioè, ci sta guardando, non è che noi li possiamo assolvere, per carità. Il Riina aveva ricevuto da Andreotti l'impegno che in Cassazione la sentenza sarebbe stata annullata dal dottor Carnevale, e negli anni seguenti aveva fatto affidamento su quella promessa. Cioè, gli deve dire: guarda che tutto sommato 4-5 anni di carcere per un mafioso è come per un calciatore rompersi il menisco. Cioè, lo sai, no? Fa parte del tuo lavoro, no? Tutto sommato. Però stai tranquillo, perché ora noi li condanniamo. Poi tra 2-3 anni c'è l'appello, e si sa come vanno le cose in appello. E poi tra 5 anni, 87-5... La Cassazione. 87-5 e 92 innanzitutto, e poi c'è la Cassazione. 1992, con la strage Capaci erano stati colti due piccioni con una fava: eliminare Falcone, pericoloso avversario di Cosa Nostra ed artefice del maxi processo, e punire Andreotti per il suo disimpegno dopo che per anni Cosa Nostra aveva sostenuto la sua corrente in Sicilia. A questo riguardo Riina aveva commentato, riferendosi ad Andreotti: ora te lo faccio fare io il Presidente della Repubblica. Insomma, e pare che c'è questo incontro che, insomma, ce lo dobbiamo anche fisicamente immaginare, perché sennò rimane semplicemente astratto. Cioè, Giulio Andreotti entra nella sala, nel salone, no? Nel tinello, diciamo. E c'è Totorrina che sta magari alla finestra, che fuma. E so, 20 anni, 30 anni, che ognuno dei due sente parlare dell'altro, ma non si sono mai potuti vedere. Pensa all'emozione, no? Cioè, è la prima volta che si guardano in faccia. Cioè, Totorrina dice, ammazza, meno gobbo di quanto pensassi. E quell'altro pensa, ma ammazza quanto è basso. No, e vabbè, insomma, stanno là uno di fronte all'altro per l'eccitazione, no? Quasi l'arrapamento, insomma, perché poi, insomma, quindi si vengono incontro, no? Si vengono incontro e che fanno? Non lo so. Come che fanno? Cioè, si baciano. Ma no, si baciano. Oh. Cioè, pare che si siano baciati. No, cioè, però anche qui Tommasino Buscetta è importante perché tutto sommato ci fa capire una cosa, cioè ci pone una domanda, e con questa domanda io ti voglio lasciare, Simone, e ti ringrazio, insomma, per la tua partecipazione. Chi ha baciato chi? No, perché vedi, è appena arrivato il caffè, eh? Senti l'odore? Sì. È buono. Nella storia d'Italia ci sono perlomeno due caffè dubbi, no? Ovvero? C'è il caffè, quello appunto di Michele Sindona, no? Del 20 marzo del 1986, e poi c'è l'altro caffè, quello di Pisciotta. Pisciotta, quello che sembra abbia ammazzato un certo Salvatore Giuliano, ma tu non sai neanche chi sia Salvatore Giuliano. Cioè, la storia è questa: stavano dentro un casale in Sicilia, no? E Salvatore Giuliano, Pisciotta e Luciano Oligio, Lucianeddu. E stanno lì, a un certo punto Salvatore Giuliano e Lucianeddu hanno litigato, pare, e Lucianeddu gli ha sparato. Però poi è scappato dal casale, è arrivata la polizia, ha trovato Pisciotta con la pistola in mano e hanno arrestato Pisciotta, che poi qualche giorno dopo ha bevuto un caffè e è morto. No, perché poi, cioè, sono cose strane, no? che capitano nella storia d'Italia, perché poi, non so se tu hai notato, come dire, la precisione con la quale i bevitori di caffè versano lo zucchero nel caffè, certo. Cioè, con l'occhio sanno calcolare matematicamente quanti granelli di zucchero stanno nel cucchiaino, e poi i cucchiaini sono tutti diversi, perché sono cucchiaini a forma tonda, un po' più cava, no? E poi lo buttano dentro e dicono, no, un altro po', e prendono 2-3 granelli e li buttano giù, e poi lo girano, e poi alcuni lo impastano, no? Chissà, Pisciotta e Sindona quanto zucchero mettevano nel caffè? Troppo, eh? Mi sa di sì. Vabbè, io adesso non ho ancora pranzato, quindi... Cioè, se vuoi te lo bevi tu, insomma, te lo lascio. Grazie. Qua al caffè, okay? Simone, noi finora ti abbiamo raccontato di vicende accadute nel 92. Quando torni a casa, se puoi, guarda che cosa è successo nel 93. Allora, per salutarti io ti rileggo di nuovo questa sentenza, ne vale la pena, eh? Non resta allora che confermare, anche sotto il profilo considerato, il già precisato orientamento ad emettere, pertanto, la statuizione di non luogo a procedere. Per essere il reato concretamente ravvisabile a carico del senatore Andreotti, estinto per prescrizione. Assolto? Assolto.